Lo sospettavo. Il governatore ha mandato i suoi campioni a cercare le chiavi. Non importa. Finiamola subito. Così potrò riprendere la mia missione, senza più fastidi.